Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel 1961 Hannah Arendt seguì per il New Yorker le 120 sedute del processo a Otto Adolf Eichmann, il responsabile del servizio di sicurezza delle SS che aveva coordinato i trasferimenti degli ebrei verso i campi di sterminio. Da quel resoconto nacque il libro La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, le cui tesi scatenarono fin dall'inizio numerose polemiche. Nel settembre 1963 il giornalista Samuel Grafton intervistò la Arendt per conto della rivista Look, che aveva commissionato uno studio sulle reazioni causate dal libro. In occasione della giornata della memoria, il settimanale Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, ripropone alcuni passaggi da quell'intervista. Ritiene che le reazioni al suo testo gettino nuova luce sulle tensioni della vita e della politica ebraiche. Se è così, cosa rivelano? Non ho una risposta definitiva alla sua domanda. La mia sensazione è di aver inavvertitamente toccato la parte ebraica di quello che i tedeschi chiamano il loro passato irrisolto, di unbewältigte Vergangenheit. Ora mi sembra che questo problema fosse comunque destinato a presentarsi e che il mio resoconto l'abbia cristallizzato agli occhi di quelli che non leggono grossi libri, probabilmente anche accelerando nella sua tematizzazione in un discorso pubblico. Quali ritiene siano le cause reali della reazione violenta di chi ha attaccato il suo libro? Una causa importante mi pare sia stata l'impressione che io abbia attaccato l'establishment ebraico, perché non solo ho messo in evidenza il ruolo del Consiglio ebraico durante la soluzione finale, ma ho anche mostrato come i membri di questo Consiglio non fossero solamente dei traditori. In altre parole, poiché il processo ha toccato il ruolo della leadership ebraica durante la soluzione finale e io ho riportato questi avvenimenti, tutte le attuali organizzazioni ebraiche e i loro capi hanno pensato di essere sotto attacco. Quanto è accaduto, a mio parere, è stato lo sforzo concordato e organizzato di creare un'immagine e di sostituire questa al libro che ho scritto. Sulla base di quelle reazioni, lei cambierebbe qualcosa se dovesse iniziare ora a scrivere il libro? Non per blandire i critici, ma perché quelle reazioni le hanno mostrato una suscettibilità da parte di alcuni ebrei che l'ha sorpresa e di cui ora vorrebbe tenere conto? Non sono stata sorpresa dalla suscettibilità di alcuni ebrei e siccome io stessa sono ebrea, penso di avere tutte le ragioni per non esserne allarmata. Penso che sia contrario all'onore della nostra professione, uno scrittore che cerca la verità, tenere conto di cose del genere. Comunque, la violenza e soprattutto l'unanimità dell'opinione pubblica tra gli ebrei organizzati, ci sono poche eccezioni, invero mi ha sorpreso. Concludo che non ho solo urtato delle suscettibilità, ma interessi consolidati, e di questo prima non ero a conoscenza. Mi posso solo chiedere, cambierei forse qualcosa alla luce di questa campagna politica? La risposta è, la mia unica alternativa sarebbe stata quella di rimanere completamente in silenzio. Una volta però cominciato a scrivere, sono stata obbligata a raccontare tutta la verità, così come l'ho vista. Secondo lei, cosa avrebbero potuto fare gli ebrei in Europa per resistere con più forza? Se, come dice lei, i nazisti celarono gli scopi dei trasporti verso i campi di concentramento, arrivando a mascherare un centro di sterminio come una stazione ferroviaria, allora forse che gli ebrei sono stati vittime di un inganno piuttosto che del tradimento dei loro capi? In quale momento i leader delle loro comunità avrebbero dovuto dire smettete di collaborare e lottate? Perché dei funzionari ebrei collaborarono? Non ci fu mai un momento in cui i capi ebraici avrebbero potuto dire, per usare la sua espressione, smettete di collaborare e lottate. Resistenza, che vi fu ma ebbe un ruolo molto piccolo, significava solo non vogliamo quel tipo di morte, vogliamo morire con onore. Ma il problema della collaborazione è ozioso. Certamente vi fu un momento in cui i capi ebraici avrebbero potuto dire «Non dobbiamo più collaborare, dovremmo sparire». Un tale momento potrebbe essere stato quello in cui essi, pienamente informati di cosa significava la deportazione, ricevettero dai nazisti la richiesta di preparare le liste di deportazione. I nazisti diedero loro il numero e le categorie di persone che dovevano essere mandate nei centri di sterminio, ma chi poi ci andò e a chi venne invece data una possibilità di sopravvivenza, fu deciso dalle autorità ebraiche. In altre parole, in quel particolare momento chi collaborò fu padrone della vita e della morte. Riesci a immaginare cosa significa questo in pratica? Pensi a Theresienstadt, dove ogni dettaglio della vita quotidiana era nelle mani dei capi ebraici. In quanto alle giustificazioni per una tale linea di condotta, ve ne furono molte in Germania. Era piuttosto diffuso il pensare: ah, se qualcuno di noi deve morire è meglio che lo decidiamo noi anziché i nazisti. Non sono d'accordo. Sarebbe stato infinitamente migliore lasciare che i nazisti sbrigassero da sé i propri affari omicidi. B. Con 100 vittime ne possiamo salvare 1000. Questo mi sembra come l'ultima versione del sacrificio umano. Prendi 7 vergini e sacrificale per placare l'ira degli dèi. Questo non è il mio credo religioso e certamente non è la fede dell'ebraismo. Infine, la teoria del male minore. Agiamo noi affinché non vi siano uomini peggiori a prendere i nostri posti. Facciamo brutte cose per prevenirne di peggiori. Eichmann, pur con il ruolo limitato che lei gli attribuisce, non avrebbe potuto causare in condizioni di guerra ritardi e confusione nei trasporti se avesse voluto salvare anche solo qualche vita. Il non averlo voluto non basta forse a renderlo un mostro secondo ogni accettazione del termine. Non penso che Eichmann avrebbe potuto sabotare i suoi ordini anche se avesse voluto. Una volta fece qualcosa del genere, come scrissi, ma avrebbe potuto dimettersi e non gli sarebbe accaduto nulla se non un arresto della sua carriera. Di certo fece del suo meglio, come ho detto molte volte, per eseguire quello che gli venne richiesto. Se la sua devozione al compito è sufficiente per chiamarlo un mostro, allora lei deve concludere che la maggior parte dei tedeschi sotto Hitler furono dei mostri. Non penso di aver minimizzato alcunché. Ho solo raccontato cosa avrebbe potuto fare e cosa no, quali erano le sue competenze. Il processo, poi seguito dal giudizio della Corte Suprema, agì come se sul banco dell'imputato ci fossero Heydrich o addirittura Hitler, non Eichmann. Questo fu assurdo. Non fui io a sminuire il ruolo di Eichmann, bensì l'evidenza dei fatti. Lei pensa che gli ebrei nel complesso abbiano imparato qualcosa dall'esperienza di Hitler? Non ho dubbi sul fatto che l'esperienza di Hitler abbia lasciato un segno profondo su tutta la popolazione ebraica mondiale. Nel libro ho parlato delle reazioni immediate e talvolta ho pensato che noi siamo testimoni di un cambio profondo del carattere nazionale, per quanto ciò sia possibile, ma non sono sicura. E mentre penso che sia arrivato il tempo di raccontare i fatti, sento che per un giudizio così ampio non è ancora arrivato il momento giusto. Lasciamo questo alle generazioni future. Avete ascoltato la lettura dell'intervista realizzata nel settembre 1963 da Samuel Grafton ad Hannah Arendt, riproposta dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Presso i depositi di alcune ditte private giacciono da anni migliaia di reperti giudiziari affidati loro dai tribunali, dopo che le lungaggini processuali avevano saturato i depositi comunali e le protratte custodie di questi oggetti, spesso di valore nullo e ormai inutili ai fini processuali, costano migliaia di euro ai contribuenti. Nemmeno fosse stata una bottiglia di gran vino dannata. Anzi, nemmeno fosse stata una bottiglia. A restare per più di 8 anni nel deposito di una ditta privata per conto del tribunale è stato un collo di bottiglia, cioè il coccio di vetro superstite alla rissa tra due cittadini marocchini, costruito appunto dal maggio 1999 al dicembre 2007, prima che il relativo processo per lesioni personali andasse serenamente in prescrizione. Custodia cara, carissima. Al prezzo appunto per 8 anni in un capannone al coperto, video sorvegliato e protetto da impianto d'allarme, di 2.383 euro più IVA. Quanti ha ritenuto, tabelle alla mano, di poter chiedere il custode giudiziario al giudice di turno, che però, leggermente scandalizzato come traspare dal decreto di pagamento e di indennità di custodia, gli ha falciato la nota spese liquidandogli soltanto 45 euro. Per farlo però, paradossalmente, il giudice Paolo Ielo ha dovuto arrampicarsi sugli specchi della normativa del 2002 e della giurisprudenza di Cassazione del 2005 per valorizzare il fatto che il bene ha un valore pressoché nullo. Ritenere che proprio la differenza tra il valore del bene e il valore della somma richiesta esprime l'inaccettabilità della richiesta e valutare negativamente la mancanza da parte del custode di comunicazioni che in questi 10 anni segnalassero la situazione. Cioè il permanere dell'inutile sequestro e con esso l'ingrassare del portafoglio del custode giudiziario con il passare del tempo. Nella sua modesta dimensione, casi come questo sono però la punta dell'iceberg di un problema serissimo e solitamente ignorato. l'impatto economico sugli esangui bilanci della giustizia degli oneri di custodia dei corpi di reato presso i depositi di ditte private negli anni riempitisi man mano che non soltanto gli uffici giudiziari, ma anche le civiche depositerie comunali non riuscivano più a trovare posto alla montagna di materiale, auto, vestiti, borse, computer, giocattoli, merce peraltro troppe volte mantenuta in custodia, se non addirittura dimenticata nelle pieghe delle carte dei fascicoli, anche ben oltre il tempo realmente necessario alle indagini e ai dibattimenti. Adesso che il piatto della giustizia piange, e anche senza bisogno di futuribili manager dei tribunali nella consapevolezza della magistratura, affiorano dosi di sempre maggiore sensibilità. A Milano, ad esempio, gli uffici giudiziari hanno da poco concluso una maxi transazione con una delle maggiori ditte del settore che, per una decina d'anni di custodia di beni, chiedeva ben 12 milioni di euro. Alla fine, il negoziato è valso un taglio della metà della richiesta, dunque con un risparmio per lo Stato di circa 6 milioni di euro. E grandi manovre sono in corso anche nel tribunale presieduto da Livia Pomodoro, attorno alla bonifica dell'ufficio corpi di reato, saturo di reperti sequestrati sin dagli anni Ottanta e parcheggiati da molto tempo in depositi esterni, dove nemmeno più si sapeva bene che cosa ci fosse. Gli esiti sono stati impensabili. Sono stati censiti e aperti 19.850 plichi riferibili a 8.544 procedimenti penali. Con il risultato di avviare una tonnellata e 60 quintali di merce, ormai inutilizzabile, alla distruzione presso l'inceneritore di Brescia, e di recuperare invece 33 bancali di merce ancora idonea alla vendita, messa infatti all'asta e con il ricavato andato allo Stato. Stesso lavoro è in corso per il materiale conservato nelle civiche depositerie comunali dal 1987. Qui sono già stati conteggiati altri 18.500 reperti. Ma l'aspetto più surreale è che il tribunale si è scoperto seduto su una Santa Barbara. 1.642 armi non più collegate alle necessità dei processi, ma sulle quali mancava qualunque determinazione dei magistrati, e altri 4.358 reperti pericolosi, bombole gas, acidi, oli, batterie di auto, pneumatici, avviati a delicata distruzione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, L'affare corpi di reato più di 2.000 euro per custodire un coccio, dal Corriere della Sera del 21 gennaio.